Questa casa che ha visto passato e avvenire, promesse di sangue, io non so più stare. Eppure ogni sera rinnovo lo stesso rituale, invocando il tuo nome. E ogni parete è uno specchio impietoso e crudele, lo schermo distorto del bene e del male, che abbiamo giurato di farci per sempre e per sempre, per sempre. Continua così, affonda la spada, finisci il lavoro una volta per tutte. Continua così, continua così. Tu lingua che batte, io dente che duole. Tutto è rimasto com'è, santuario di neve, devoto al dolore che ci sopravvive e che statue di sale ci vedrà per sempre, per sempre e per sempre, per sempre. Comincia così la fine di un mondo, la chiave spezzata, la porta che hai chiuso. Continua così, continua così. Il tempo che ho dato, il tempo che ho avuto. Questa casa che ha visto passato e avvenire, promesse di sangue, io non so più stare.